Capitolo 21. David, avendo offeso il Signore col fare il censo del popolo, e percosso dalla pestilenza, che aveva eletta dei tre flagelli, fino a tanto che placa con l'orazione il Signore, e alza un altare nell'aglia di Ornan Gebuseo. Ma Satan si levò su contro Israele, e incitò David a fare il censo di Israele. David pertanto disse a Joab, e ai capi del popolo, andate, e numerate Israele da Bersabea sino a Dan, e riferitemi la somma, perché io vo saperla. E Joab rispose, il Signore aumenti il suo popolo 100 volte più di quel che gli è, ma non sono egliino, o re mio Signore, tutti quanti tuoi servi? Per qual motivo va cercando il Signor mio di fare una cosa, che sarà imputata a peccato ad Israele? Ma prevalse il parere del re, e Joab andò, e fece il giro di tutto Israele, e tornò a Gerusalemme, e portò a Davide i ruoli di quei luoghi, che aveva già visitati, e tutto questo numero di israeliti si trovò a essere di 1.100.000 uomini atti a maneggiar la spada, e 470.000 combattenti di Giuda. Però che Joab di mala voglia, adempiendo l'ordine del re, non fece il censo di Levi, e di Beniamin. E a Dio dispiacque il comandamento dato dal re, e punì Israele. E David disse a Dio, ho peccato grandemente facendo tal cosa, perdona, o Signore, l'iniquità del tuo servo, perché io stoltamente ho operato. E il Signore parlò a Gad veggente di David, e disse, va, e parla a Davide, e digli, il Signore dice così, io ti do l'elezione di una di queste tre cose, scegli quella, che vorrai ricevere da me. E Gad essendosi presentato a Davide, disse, queste cose dice il Signore, scegli quel che ti pare, o la fame per 3 anni, o per 3 mesi andar fuggendo i suoi nemici, senza poterti sottrarre alla spada loro, o che per 3 dì la spada del Signore, e la pestilenza vada in giro per il paese, e che l'angelo del Signore vada facendo strage in tutte le regioni di Israele. Ora vedi tu quel che io debba rispondere a colui che mi ha mandato. Rispose Davide a Gad, dovunque io mi volga sono in angustie, ma è meglio per me il cader nelle mani del Signore, però che molte sono le sue misericordie, che il cader nelle mani degli uomini. Mandò adunque il Signore la peste in Israele, e perirono di Israele 70.000 uomini. Mandò ancora l'angelo a Gerusalemme per flagellarla, e mentre era in desolazione, il Signore gettò sopra di lei il suo sguardo, ed ebbe compassione di tanto male, e intimò all'angelo sterminatore, non più, trattieni la tua mano. Or l'angelo del Signore si stava presso all'aia di Ornan Gebuseo. E alzando Davide i suoi occhi, vide l'angelo del Signore, che stava tra cielo e terra, e aveva in mano la spada sguainata volta contro Gerusalemme, e tanto egli, come i signori vestiti di sacco, si prostrarono bocconi per terra. E Davide disse a Dio, non sono io quegli, che ordinai, che si facesse il censo del popolo? Io sono, che ho peccato, io, che ho fatto il male, che ha meritato questo gregge? Signore Dio mio, rivolgi, ti prego, contro di me la tua mano, e contro la casa del padre mio, ma non sia flagellato il tuo popolo. E l'angelo del Signore comandò a Gad, che dicesse a Davide, che andasse ad ergere un altare al Signore Dio nell'aia di Ornan Gebuseo. Andò adunque Davide secondo quel che gli aveva detto Gad a nome del Signore. Ma Oman, e i suoi 4 figliuoli nell'alzare gli occhi avendo veduto l'angelo, andarono a nascondersi, però che allora battevano il grano nell'aia. Ma in arrivando David a casa di Ornan, Ornan lo vide, e si mosse dall'aia verso di lui, e lo adorò inchinandosi fino a terra. E David gli disse, dammi il sito della tua aia, prendendone tu il valore in contanti, affinché io vi edifichi un altare al Signore, onde non sia più flagellato il popolo. E Oman disse a David, prendila, o re signor mio, e fanne quel che ti piace, anzi anche i bovi io do per l'olocausto, e le tregge per far il fuoco, e il grano per il sacrificio, tutto volentieri darò. E il re David gli disse, non sarà così, Ma io ne pagherò il valore a denaro contante, però che non debbo io togliere a te, e così offerire al Signore olocausti, che non mi costino nulla. David dunque diede ad Oman per prezzo del luogo 600 sicli d'oro di giusto peso. E ivi edificò un altare al Signore, e offerì olocausti, e ostie pacifiche, e invocò il Signore, il quale lo esaudì, mandando fuoco dal cielo sull'altare dell'olocausto. E il Signore comandò all'angelo di rimettere la spada nel fodero. E immediatamente David veggendo, come il Signore lo aveva esaudito nell'aglia di Oman Gebuseo, vi immolò delle vittime. Ora il tabernacolo del Signore fatto da Mosè nel deserto, e l'altare degli olocausti erano in quel tempo nel luogo eccelso di Gabaon. E David non ebbe forze per andare a quell'altare, per ivi pregare il Signore per l'eccessivo spavento che aveva avuto al veder la spada dell'angelo del Signore. Note, che sarà imputata a peccato ad Israele. Per cui sarà punito Israele. La voce peccato significa sovente la virgola con la quale è punito il peccato. Due punti non fece il censo di Levi e di Beniamin. Il censo è dunque della tribù di Beniamin, che leggesi, cap. 7. Ec. Non fu fatto in questa occasione. Due punti è meglio per me il cadere nella mani del Signore. Le mani di Dio sono mani di padre, che gastigano per effetto di amore. Gli uomini agiscono per lo più con pulsione e per malizia. In un altro senso è meglio il cadere nelle mani degli uomini, che in quelle di Dio, come dicesi, Dan. 13. Ecli. Perché Dio può punire per l'eternità, ma il male, che possono farci gli uomini, è passeggero.